Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Nella mia fosca e travagliata adolescenza mai avrei pensato di arrivare all'età matura e vivere un periodo in cui le donne cercano gli uomini. Sì, perché oggi la porzione femminile che maggiormente mi capita di conoscere e frequentare, che sono donne che di un'età media, dai 35 ai 55 anni, diciamo, donne realizzate, donne intelligenti, donne che hanno raggiunto la loro autonomia e hanno la libertà di esprimersi, la libertà di relazionarsi, mi dicono che non ci sono più uomini validi in giro. Sì, quei pochi che sono rimasti o sono affranti, disperati da oneri familiari che li trasformano in eunuchi dal punto di vista dell'interesse e della affabilità e della mascolinità. Gli altri, quelli liberi, non ne parliamo perché devono gestire un numero eccessivo di situazioni matrimoniali esplose, finite, fallite, quindi sono esauriti anche da quel punto di vista. Quelli che ancora sono liberi, sono molto poco interessati alle donne. E qual è oggi il problema? Perché non ci sono più uomini quando di donne ce ne sarebbero tante? Crebbe bisogno, desiderio, facoltà e magnifica disponibilità nel conoscere e frequentare uomini. Beh, questo è un problema che mi ha molto appassionato, di cui spesso ho parlato a Melog. Sei più bravo tu o Gabriel Garco? Molto più bravo io. Tu o Raul Bova? Sono più bravo di tutti questi che ci sono. Senti, sei più bravo tu o Clooney? Clooney è un cane, è diverso. Sei più gay tu o Clooney? Gay? Clooney è donna, io sono bisessuale, è diverso. La fuga di Fabrizio Corona è finita sulle sponde di quell'oceano atlantico che, se solo fosse riuscito ad attraversare, gli avrebbe assicurato una latitanza dorata, magari in un paese sudamericano che non riconosce l'estradizione all'Italia. E invece la fuga dell'ex paparazzo, impresario di gossip, da una condanna definitiva di 5 anni di carcere, si è fermata ai confini dell'Europa, a Lisbona. Con un messaggio postato nel sito della sua agenzia di comunicazione, Corona sostiene di essersi costituito spontaneamente alla polizia. Sono arrivato adesso in Portogallo dopo 4 giorni di viaggio. Mi sto consegnando spontaneamente alle autorità portoghesi. Diverse invece la Fabrizio Corona non è l'argomento di oggi. Non parliamo di Fabrizio Corona. Parliamo di un problema che ogni essere umano di sesso maschile più o meno conosce bene. Se frequenta donne che non siano mogli, amiche, fidanzate, amanti, occasionali compagne, generose procacciatrici di intime d'azioni, si sentirà dire da un'età media di femmine dai 30 ai 50 anni: ma dove sono finiti gli uomini? Iniziano le lamentele, non ci sono più uomini, gli uomini sono superficiali, sono dei mammoni e non si sa da che parte siano. E insomma, è capita, è normale, è facile che si possano avere tantissime amiche perché non ci sono più uomini in giro. Amiche belle, di ottima presenza, professionalmente anche realizzate, autonome, felici, sessualmente disinibite, però sole. Perché? Perché nessun uomo le vuole. E perché questo? Non lo sappiamo. Probabilmente dipende molto dal fatto che il modello maschile per eccellenza, e ne ho la prova tangibile e costante, sia proprio Fabrizio Corona. Fabrizio Corona, celebrato fortemente da tutti gli organi di stampa, chi lo prende in giro, chi in realtà sotto sotto ammicca alla sua presenza mediatica importantissima, chi prende le distanze ma con un occhio passionale lo guarda e in fondo vorrebbe da lui qualcosa di più che un semplice e fugace passaggio da intervistato. Ieri ho visto fantastici servizi, addirittura anche al TG3, sulla grande latitanza, grande, durata un paio di giorni, di Fabrizio Corona, che varcò il confine patrio fuggendo da una palestra a bordo di una 500 e fu beccato perché aveva un GPS antifurto. L'hanno preso immediatamente al volo e si consegnò alla metropolitana, appuntamento alla metro. Ma prima ancora di darsi nelle mani della polizia, definitivamente affrontare i 7-8 anni di galera che dovrà fare, fece una telefonata a una televisione amica raccontando, appunto, iniziando il lungo filo del racconto della sua prigionia, di lui pirata, di lui ingiustamente accusato e colpito, abbastanza duramente colpito, devo dire. Cosa rappresenta Corona? Corona rappresenta l'effetto posticcio di quella che dovrebbe essere la mascolinità, la virilità, perché ha un fisico possente, ha uno sguardo sprezzante, ha un ciglio accigliato, è super tatuato, sempre circondato da donne, ha fatto il lancio delle mutande dal balcone di casa sua e sotto c'era la ola di femmine che le raccoglieva. Voi direte, parli per invidia? Sì, forse, certo, lo invidio. Vorrei anch'io avere il fisico di Corona, vorrei anch'io avere la centralità di Corona. Chi è che non vorrebbe averla? Non scherzate, nessuno vorrebbe avere la galera. Forse il problema è proprio questo: il modello maschile è un modello che in realtà non esiste, è semplicemente una sorta di crisalde vuota, non c'è più l'uomo dentro, è soltanto apparenza, è l'uomo che simula se stesso di essere uomo. Guarda caso, tutti gli ultimi grandi scandali sessuali, non ultimo il magistrato arrestato perché sembra che da intercettazioni videoacustiche facesse ricatti sessuali, ma chi? Alle trans, a uomini che hanno trasformato la loro apparenza esteriore, probabilmente mossi da un profondo, e non voglio assolutamente riderlo, spinta interiore, in donne. Quindi da simulacri di donne. Anche la più abietta, la più infima, la più detestabile forma di espressione della mascolinità, che è il ricatto sessuale, viene fatto non verso donne, ma verso surrogati di donne. Per questo sono a tutti gli effetti. 800240024. Dove sono finiti gli uomini? Oggi mi asterrò da ogni commento, mi asterrò da ogni presa di posizione. Sarò neutrale, trasparente, non sarò né uomo né donna né niente. Sarò soltanto una voce. Per oggi vi prego, donne, che vi ho trascurato in questi giorni parlando di aerei da combattimento, parlando di cose che a voi non interessano nulla, oggi è veramente il grande giorno. Dite perché siete alla cerca disperata di uomini e secondo voi dove sono finiti gli uomini? Un uomo che stimo molto mi ha confidato che per lui trovare un amico con cui passare una serata piacevole non è mai stato facile. Mi è parso, con qualche eccezione, di non potergli dare torto. Ho chiesto a un'amica cosa ne pensasse di questa situazione. Mi ha guardato con gli occhi sgranati. A noi lo dici? Pare che le donne di oggi tra i 30 e i 50 anni facciano sforzi sovrumani per trovare un normale interlocutore maschio, né genio né somaro, con cui avere un rapporto disinteressato e autentico, di qualsivoglia natura, senza dover fare necessariamente le mamme, le zie o le badanti. Tanto che molte hanno smesso di cercare. Troppa fatica, troppo lavoro, troppa concorrenza, troppe delusioni. Una resa incondizionata. Ma che succede? Dove sono gli uomini, fisicamente e metaforicamente? Soprattutto, che cosa fanno mentre un esercito di donne li cerca e non li trova? Questa è una delle testimonianze che ha raccolto Simone Perotti nel suo libro Dove sono gli uomini, per chiare lettere. Simone Perotti è un ex manager, lo ricordate, lo abbiamo avuto in trasmissione più volte, è il teorico del downshifting, del passo indietro. A un certo punto abbandona il massacrante, rutilante, annientante mondo della competizione del lavoro e prende la sua passione, fa lo skipper, si occupa di va in giro con la sua barca, si occupa di cucina, si occupa di cose che lo gratifichino. E in questo suo beato e felice esilio dal luogo, dal centro, motore del massacro della mascolinità, ha cominciato a interrogare donne, perché da come dice lui nel suo libro, in questo momento la tiro lunga perché non ce l'abbiamo ancora al telefono, perché naturalmente avendo fatto un libro sulla assenza e la latitanza degli uomini deve dare un attimo il segno anche lui della latitanza. Cioè, a un certo punto lui ha una bella barca, ogni tanto mette su Facebook l'annuncio: chi vuole con me andare a fare un piccolo viaggio in barca con un piccolo contributo, quindi praticamente una grande occasione, lo porto in giro a farsi un bel giro per il mare. Beh, di solito su 10 persone che rispondono, 8 sono donne. Gli uomini sono rarissimi. Perché? Perché le donne hanno un sacco di tempo libero, hanno tanti interessi, scrivono a tutti i corsi, fanno attività che normalmente erano destinate al mondo maschile. Gli uomini stanno rintanati, stanno chiusi, stanno cupi, stanno tremebondi, nascosti nella loro umbratile tana e aspettano che qualcuno venga a scovarli, o perlomeno forse non vogliono che nessuno debba scovarli. Vito, buongiorno. Ciao. Salve, buongiorno Nicoletti, buongiorno. Io ho chiesto l'appello donne, chiamo un uomo, mi sta bene. Sì, chiamo perché mi interessa molto l'argomento, anche perché lo sto un po' subendo in questi ultimi anni, diciamo. E quello che ho notato in giro, io sono una persona normale, equilibrata, che si muove in maniera tranquilla in mezzo alle situazioni, sono un creativo, per cui ho una certa disinibizione nei confronti di ciò che mi circonda. Oddio, Vito, io non voglio essere crudele. Uno che si autodefinisce creativo forse dovrebbe un po' riflettere sulle sue reali vocazioni. Comunque andiamo avanti. Vabbè, sì, perché non riesco, non ci sono i tempi tecnici per spiegare quello che faccio. Il creativo è generico, però in realtà. Comunque, al di là di questo, mi interessava dire, sottolineare, quello che ho notato nell'atteggiamento delle donne, e negli ultimi anni specialmente, che hanno preso un po' tutti quei vizi negativi che l'uomo aveva fino all'altro ieri. Ad esempio? Una certa arroganza, autonomia, un certo modo di comportarsi, entrare in scivolata, essere abbastanza sgarbate, avere tutta una serie di situazioni. Lei mi sta dando una risposta, Vito, sta dicendo ci credo che le donne non trovano uomini, sono diventate così aggressive, così mascoline, che noi uomini ci nascondiamo perché non ci va più di frequentare. Ma più che nascondersi, non si crea uno stimolo nella diversità. Io non è che sto dicendo che l'uomo deve essere in un modo e la donna deve essere in un altro. Io sto dicendo che molte donne che vengono incise, specialmente sui 45 anni, che è un'età critica, 40-45 anni. Ma perché critica? È un'età bellissima, trovo, per la donna. A me piace tantissimo, figuriamoci. Però quello che critica, nel senso, nell'osservare quello che il panorama del mio punto di vista in una metropoli come Bari. Ma lei le riceva in penombra, si sentirà meno osservato, non so, di solito. Guardi, non è un problema di essere io sentirmi osservato o meno, è un problema di atteggiamento. Ci sono tanti di quegli atteggiamenti che stanno venendo fuori da parte di gruppi di donne che spesso escono insieme. Cioè io, Insieme perché non hanno uomini con cui uscire, uomini decenti, questo almeno certo. Dicono. Io sono neutro e non voglio prendere posizione. Perché a me è capitato spesso, anche recentemente, di essere invitato ad uscire in gruppi di donne ed essere l'unico maschio. No? L'unico sì, maschio, succede spesso. Solo dire succede spesso. E a me mi dico ti dà fastidio. No, ma per carità, io sto bene insieme ai donne, non è un problema. Però il discorso è che in senso generale, come concetto... Sì, che uno dopo due o tre volte alla fine si stanca di fare il pelide Achille che gioca a con le ancelle. È chiaro, è così. La capisco, Vito. Roberta, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Io Roberta, Roma, 42 anni. E in realtà sì, è vero, da una parte non ci sono più un certo tipo di uomini. Lei come sta messa, Roberta? Ma io sto messa, nel senso, 42 anni, vado e vengo con relazioni, adesso sono stabile da circa 2 anni. Quindi non è che si può lamentare alla fine? No, non mi posso lamentare, però io ho moltissime amiche single. Ma lei si accontenta, Roberta? Prende quello che le capita? Non è un fatto di accontentarsi, è un fatto che noi donne certe volte... siamo troppo esigenti, ma esigenti significa io voglio un uomo come dico io, non riesco a trovare un uomo come dico io. Ma secondo lei come dicono le sue amiche che lo vogliono? Allora, innanzitutto cerchi se possibile, Roberta, allucini l'uomo ideale per cui le donne sono alla ricerca disperata di questo santo graal maschile che non trovano più. Innanzitutto lo vogliono con i soldi. Questa è una cosa, cioè non il lavoratore modesto. Ma chi lo vuole un poraccio, chiaro? No, il poraccio no, ma chi vuole la donna che vuole un uomo solo esclusivamente per i soldi? Punto primo. No, forse no, forse però che abbia un po' di autonomia. Io una delle lamentele, se sento, guarda, oggi un uomo non ti offre più ma nemmeno un caffè, fa finta di niente, paga a metà anche la pizza, una cosa abbastanza degradante. È vero, però la donna non può, secondo me, ad oggi pretendere innanzitutto l'uomo, appunto, che gli risolva le problematiche, perché comunque se vogliono un rapporto pari vuol dire che... Vabbè, i soldi abbiamo capito, voglio un uomo con autonomia economica. Poi vogliono strafigo, e va bene. Strafigo che significa? Strafigo lo vogliono, che sia elegante, che si vesta bene, una persona che si sappia comportare in mezzo alla gente, una persona che non indossi, per dire, che non indossi calzini bianchi. Io ho sentito persone dire così. Beh, non hanno torto il calzino bianco. Non hanno torto, ma che ci vuole? Renderebbe vergine una cortigiana, penso, non lo so, vedere un uomo col calzino bianco. Ma tu non puoi partire dal presupposto che non vuoi un uomo con calzettoni bianchi. Cioè, sì, però guardi, con calzettoni bianchi, ma basta poco. No, aspetti, Roberta. Calzettoni Roberta, neri, ecco fatto che l'uomo va in giro. Roberta, no, c'è neri. Una differenza sostanziale. Hai detto calzettoni. Il calzettone calzettone bianco. Calzettone bianco sportivo può essere anche tollerato in certi atteggiamenti, in certi abbigliamenti. Il calzino bianco no. Il calzino bianco scelgo, è la condanna. Ma tu non puoi scegliere un uomo, dire no, questo non lo voglio perché c'è un paio di calzini bianchi. Un uomo ci metti un attimo a convincere. Eh no, guardi Roberta, la traccia interiore, il DNA, la mutazione genetica dell'uomo col calzino bianco non la cancella più. Può mettergli tutti i calzini che vuole, calzini gallo a strisce, fanta fighetti, ma rimarrà sempre uno sfigato, e questo è chiaro, è normale, e le sue amiche lo sanno. Poi mi dica un'altra caratteristica. Un'altra caratteristica, quindi, lo vogliono... mi deve proteggere, io mi devo sentire sostenuta da un uomo. Beh, ci hanno ragione. Hanno ragione fino a un certo punto, nel senso che anche la donna deve dare questo all'uomo. Cioè, ma no, la donna deve proteggere, la donna deve tenere una tana calduccia pronta, che deve proteggere. Ma perché non è mai capitato che un uomo sta giù di morale perché certe cose non gli vanno bene? Ma per tirare sul morale un uomo mica bisogna fargli da mamma o fargli da... mamma no, ma da compagna, cioè due persone devono camminare insieme, non è che l'uomo deve stare avanti, la donna di dietro o la... due passi dietro non sarebbe male, no, onestamente. No, secondo me devono camminare secondo insieme. Le vecchie tradizioni, no, io voglio essere neutrale, però è bello avere la donna che cammina due passi dietro, dà quel senso di virile supremazia che in fondo non è che dispiaccia. Adesso entrare in merito. Ma la donna non vuole stare dietro comunque, lo vuole stare dietro solamente per quando gli conviene per certe cose. E dove vuole cose. Stare la donna? Secondo me la donna deve stare al fianco di un uomo, non deve stare né dietro né davanti, perché se sta davanti fa la parte dell'uomo a comando io. No, se sta davanti fa la se sua parte. Se sto dietro, perché sto dietro, quindi sono inferiore a chi ti credi, io non sono... Vabbè, come vede, ci stiamo esaurendo in quelle che vengono chiamate con un termine scientifico seghe mentali, ma non arriviamo al dunque, al punto, perché realmente poi questi uomini sono così imprendibili. Lei dice c'è un livello di attesa troppo alto. L'uomo non può entrare in questa fantastica allucinazione del maschio che è stupendo, è splendido, è autosufficiente da un punto di vista economico, è elegante e tutto, e quindi gli uomini si mortificano, soffrono di ansia da prestazione e quindi per non essere messi a cimento dalle donne si nascondono. 800 24 00 24, voi come la pensate? Alessandra dice che l'unico momento in cui Luigi è perfetto è in caso di emergenza e di effettivo bisogno. Lì diventa bravissimo. È sempre pronto a prendere in mano la situazione o a fare qualsiasi sacrificio. Alessandra lo spiega come un retaggio militare, ma poi abbassa lo sguardo. Tutto il resto del tempo, nella vita normale, mio marito non c'è. Poi ci sono le scenate. Ogni 5 o 6 mesi ha uno scatto d'ira. Urla in modo furibondo. Sbatte tutto quello che trova. Dice che non si sente amato, che ho attenzioni solo per Robertino. Sono convinta che vorrebbe essere il mio secondo figlio. Mi minaccia davanti a lui. Dice che mi caccerà di casa. E una volta l'ha quasi fatto. Mi chiedo perché mai una donna in gamba, attraente e ancora giovane, continui a stare con un uomo così. Simone Perotti, buongiorno. Buongiorno a voi. L'abbiamo recuperata, voleva fare anche lei, l'uomo invisibile questa mattina per dare forza. Bisogna scrivere forza. Un libro dove sono i treni, perché più che dove sono gli uomini, perché qui è una tragedia. Dunque io... Scuso. No, ma figuriamoci, ho anticipato comunque delle parti del suo libro, ho racchiuso in rozze mie parole la sua teoria, ma vedo che lei è già molto conosciuto alle nostre ascoltatrici. Su Facebook mi stanno scrivendo delle fan del suo libro inchiesta, del suo libro interrogatorio alle sue amiche, mi chiede: Grazia, da quando gli uomini hanno smesso di cacciare e fare la guerra, vagano invisibili alla ricerca di un ruolo. Giulia invece mi chiede se intervisti l'autore in trasmissione, fatti raccontare bene il capitolo dedicato alla vendita dei dildos, che sarebbero i simulacri fallici. Vediamo se può in qualche maniera esaudire, visto che questo mi hanno chiesto subito, per dare il segno di questa aggressività femminile che tanto ha spaventato i nostri ascoltatori all'inizio della trasmissione, di dare il segno in realtà di quella che è la quintessenza della sua osservazione. Non ho sentito praticamente nulla, se non quintessenza della sua osservazione, mi scuso, ma non c'era l'audio. È un po' difficile lavorare in queste condizioni. Sì. Ricominciamo da capo. Delle ascoltatrici mi hanno scritto, che hanno già letto il suo libro, mi dicono che in realtà l'uomo ha questo ruolo fugace perché non fa più la guerra e non va più a cacciare, quindi non sa più come comportarsi da uomo. Un'altra ascoltatrice vuole che lei racconti il capitolo del suo libro dove descrive l'acquisto di protesi falliche da parte delle donne che non trovano più in realtà il corrispondente naturale nei loro compagni. Ha sentito? No, vabbè, pazienza. Marta. Sì, sono presente. Marta, vediamo se riusciamo a farcela anche senza Perotti questa mattina. Buongiorno, sì. Io ho 75 anni compiuti l'altro giorno, sono stata sposata, ho avuto un compagno e di questo compagno direi che era un artista e portava i calzini bianchi. Quindi lei vuole rovesciare la teoria del calzino bianco? Eh sì, e a me non ha mai dato fastidio, anzi gliel'ho comprati anch'io. Quello del calzino bianco è un'idea un po' geniale. Lo spettro variegato del masochismo femminile ha delle punte sorprendenti. Non mi dava fastidio affatto. Ecco, allora volevo dire, gli uomini oggi, sento le mie amiche. Ce l'aveva lungo o ce l'aveva corto il calzino bianco? Ce l'aveva lungo. Ah beh, allora era lungo. Allora le donne sposate comandano sugli uomini e cercano di tirarli, fare loro quello che vogliono. Quelle vedove, come sono io, si limitano a osservare il panorama. Cioè, quindi, che vuol dire osservare il panorama? Perché la vedova, una volta vedova, ha un suggello di impossibilità. No, io ho avuto calzini bianchi, adesso ho 75 anni, ma ho un'amicizia così fugace. Ma quello dei calzini bianchi è morto, mi sembra aver capito. È morto, sì. Vabbè, succede anche a lui. E adesso lei ha un'amicizia alternativa. Ho un'amicizia così a tempo perso. E i calzini come ce l'ha questo nuovo? Corti scuri. Beh, almeno cambia. Dei bianchi lunghi però. Scuri, in segno della vedovanza, mi sembra un rispetto doveroso. Melog. La realtà condivisa. Mi chiamo Amanda. Ora sono single. Nonostante la mia vita da impiegata nell'organizzazione di eventi mi porti spesso a occuparmi di matrimoni, la volta in cui ho dovuto pianificare il mio è saltato tutto appena dopo la consegna delle partecipazioni. Quella sera in cui ho visto il mio lui per l'ennesima volta, seduto sulla poltrona davanti al televisore, con la birra in mano davanti alla solita partita di calcio, ho capito che non volevo passare così il resto dei miei giorni. Sono romantica, ho sempre creduto nell'amore vero, quello che non si spegne sotto lo stesso tetto e con il ritmo scandito dalle abitudini. Sono ancora alla ricerca del batticuore, di quella sensazione che ti fa camminare a un metro da terra. Voglio che il mio uomo faccia ancora delle pazzie per me. 800024 stiamo parlando del problema che sembra attanagliare l'animo femminile contemporaneo. Dove sono gli uomini? Dove sono gli uomini? Anche il titolo del libro di Simone Perotti per Chiare Lettere. Simone Perotti ha sentito alcune sue amiche e ha dedotto che in realtà esiste una tipologia di femmina che sarebbe perfettamente in grado di dare felicità al genere maschile, ma in realtà non trova l'oggetto su cui praticare la propria dazione felice. Chiara, buongiorno. Buongiorno, io sono Chiara, ho 35 anni, sono sposata da 15 anni, volevo dare la mia testimonianza, cioè spezzare una lancia a favore di questi poveri uomini. Vabbè, perché se ne è preso uno lei magari, immagino. Me ne sono preso uno che è proprio un campione. Comunque, un po'. A parte questo, il problema è questo, quale donna ai tempi di oggi accetterebbe di accettare che un'altra persona decidesse come ci dobbiamo vestire, chi dobbiamo frequentare, quanto dobbiamo bere quando usciamo? Cioè, le donne... Li abbiamo stufati con un miliardo di richieste. Ma chi è che fa queste richieste agli uomini? Ma noi, le mogli, le fidanzate, io tutto quello che vedo intorno alla mia esperienza, e non ti vestire così, e mangia così, e mi dai fastidio così, cioè se ognuna lasciasse libero la persona che ha vicino di esprimersi, di essere ma come se a lei non piace come mangia o come beve, fa giusto dire. Ma non è mica un problema, ci sono altre cose. Se io non accetterei che mio marito mi dicesse non ti mettere il calzino bianco, non bere la birra sul divano, non... Cioè, la vita è nostra, bisogna vivercela come vogliamo. Quando viviamo accanto a un'altra persona siamo fastidiosi. Sì, io non tollero le persone che fanno cose fastidiose per me, lo dico. Lo so, però quando si sposa una persona si sposa un po' anche tutto, bisogna anche un po' sacrificarsi, non si può... Ah, la parola sacrificio non fa parte del mio vocabolario, generalmente, però beh, io voglio essere neutro questa mattina, quindi perché uno deve sopportare un uomo puzzolente, ad esempio? Suo marito ha un buon odore. Ma arrivare a degli eccessi, però insomma il calzino bianco si può anche sopportare, oppure no? Perché se no se andiamo alla ricerca della perfezione, certo che rimarremo sempre da soli. Quindi Chiara, diciamo il suo messaggio dice, io me ne sono preso uno da 15 anni, me lo tengo stretto così com'è e mi sta bene, quindi fate come me e sarete soddisfatti. Chi si accontenta gode, ecco, alla fine questa è la sintesi. Neanche un pochino essere un pochino più normali, tra virgolette, senza pensare di volere chissà cosa. Va bene, Chiara è un perfetto esempio di donna dalla bocca buona, e quindi ha detto, mi prendo questo, me lo tengo, voi ne volete troppe, a forza di cercare e di essere incontentabili rimarrete sole. Margherita. Pronto? Sì. Sì, buongiorno. No, io volevo dire, allora, praticamente sono una delle poche che è contenta del ruolo, tra virgolette, sottomesso della donna, nel senso che... Mica io... c'è niente di male, guardi. No, io ho telefonato proprio per dirlo. Il vero miracolo della letteratura contemporanea è proprio un libro che parla di una donna che gli piace essere legata, frustrata, sottomessa. No, ora, questo no, nel senso che, cioè, io riconosco che la donna abbia un ruolo diverso dall'uomo, e finché è stato così, ora non dico che la donna deve essere picchiata e deve stare zitta, però ha un ruolo diverso dall'uomo. Beh, qualche sculacciato ogni tanto, sì, lo ammette. No, ora no. Piano, senza far male. No. È solo che da quando la donna... Un amoroso rimprovero, non lo fare più, stai attenta, questo sì almeno. Ma... Sì, un rapporto... E allora in cosa è sottomessa? Scusi, botte no, rimproveri no, in cosa è sottomessa lei? Psicologicamente? Ma nemmeno, nel senso, io alla fine una donna che vuole fare quello che vuole fare, vuole prendere le decisioni, le prende ugualmente, anche se l'ultima parola la fa dare all'uomo, perché il rapporto... Cioè se fare la pasta al sugo, farla in bianco, questo diciamo è nei margini della sua capacità di poter decidere. No, ma per dire, se so che mio marito gli piace una minigonna e un tacco alto, io non vedo nessun sacrificio per una minigonna per compiacere mio marito. Ah, mettersela lei? Sì, per dire, no? Dov'è il sacrificio, scusi? Questa emancipazione della donna che vuole decidere, vuole avere l'ultima parola, secondo me ha rovinato la società, infatti oggi vede la società, le donne... Quindi lei normalmente porta gonne alla caviglia, però se suo marito proprio dice, guarda, mettila corta, la mette corta, questo è il senso. No, cioè è un esempio banale, però... Margherita, perfettamente chiaro. Michela. Buongiorno, sono Michela di Perugia, ho 43 anni e telefono più che altro intanto per dire che il rapporto di coppia non è uguale per tutti. Ma qua non parliamo di coppia, la coppia... Scusi, no, Margherita, Michela, di coppia, la coppia per chi si accontenta, come dice Barbara Alberti. No, ecco, io su questo non sono d'accordo, nel senso che ogni coppia ha i propri equilibri e vanno comunque... Ma qua stiamo parlando di donne che non trovano uomini, non è la coppia. Lei, se già un uomo, è a posto. Io sì, io sono sposata e per la seconda volta. Ho sbagliato la prima, ma la seconda è andata bene. Da un uomo che amo profondamente, con cui però ci sono degli scontri... Vabbè, Michela, fuori argomento, non c'entra nulla, non è questo il tema. Scusate, non voglio donne felici, realizzate, che trovano il giusto compromesso. Voglio donne irrequiete, donne che non si accontentano, donne che vanno cercando l'uomo e non lo trovano. Non voglio quelle che si accontentano, che hanno preso uomini e hanno detto, ma ci teniamo così come sono. Simone Perotti, buongiorno. Buongiorno, scusate per prima. No, sono. Non è colpa sua, è colpa delle intemperie dei trasporti. Come vede, ahimè, purtroppo poi affiorano sempre a galla, vengono queste icone della felicità coniugale, la felicità di coppia, fintissime, le trovo profondamente ipocrite. Chi va proclamando la propria felicità, secondo me, è la persona più infelice del mondo. Ma vediamo invece il campione che lei ha analizzato e di cui sentiamo ogni giorno segnali prepotenti. Beh, è un campione che rappresenta, credo, abbastanza bene una situazione che non ha precedenti. Mai, credo, come oggi, la distanza tra un disequilibrio, una mancanza di orizzonte, di nuova frontiera maschile è stata così distante appunto dalla condizione femminile, che invece pur con tutte le sue difficoltà è comunque contrassegnata da una grandissima energia, tanta voglia di tentare, essere su piazza, essere in giro, sono dovunque, tentano, fanno, hanno un grande desiderio di incontrare la società, gli altri, gli uomini. Senza denigrare nessuno, però sarò sembrato duro, ma non sono le donne che hanno telefonato. Quelle stanno bene, felici e contente, non ci interessa. Ci interessa il fenomeno emergente. Lo conosciamo, chi gira, chi frequenta, chi si mette in gioco, vede queste donne, la vede l'irrequietezza di queste donne che dicono ma dove sono gli uomini? Anche loro potrebbero accontentarsi, prendersi un uomo col calzino bianco che sta stravaccato sul divano e dire beh me lo tengo, ma non è questo. Ma no, vede, loro... La gran parte delle donne oggi che sono le figlie di quelle che hanno manifestato e voluto una condizione femminile diversa, ma non sono vissute così perché sono tutte morte, nonne e mamme, in un ambiente assolutamente rientrato nella vieta borghesia dell'Italietta che volevano tanto buttare giù. Queste figlie... Le terrazze romane ne sono piene, lo sappiamo bene, esatto. Trasudano di queste cose. Le 35enni attuali che invece non hanno manifestato, non hanno cantato nessuno slogan, sono vissute effettivamente come le loro madri dicevano che si dovesse vivere, quindi sono autonome dal giudizio sociale, decidono se fare figli o no, non in base a il pensiero comune, sono autonome psicologicamente. Ecco, questa autonomia, questa indipendenza non trova un interlocutore, questa è la realtà, perché un interlocutore per donne così compiute, così piene di energia, dovrebbe essere un uomo che ha trovato una sua nuova frontiera, ma la questione maschile non è mai emersa, non è mai sorta, quindi noi viviamo come vivevano i nostri padri, con la piccola differenza che non abbiamo i loro attributi, la loro chiarezza, la loro forse anche semplicità nella linea e nella rotta, e quindi questo ci mette in grandissima difficoltà. Occorre una nuova frontiera per gli uomini, altrimenti non saranno mai interlocutori di queste donne che sono rimaste sole. Il vero problema è che poi la seconda fase di quello che dicono queste donne, cioè gli uomini che varrebbe la pena frequentare, sono tutti impegnati, quindi evidentemente c'è una prima fila di agguerrite guerrigliere che gli uomini che se la sentono di affrontare questo tipo e questo ritmo di femminilità in parte sono piazzati, e allora cominciano veramente i problemi. Gli uomini piazzati in qualche maniera possono essere spiazzati, e gli uomini che vagano in solitudine in realtà sono inaggredibili perché stanno nascosti nelle loro caverne. E come risolviamo questa equazione? Melog, la realtà condivisa. .800240024, vediamo se riusciamo a far emergere quello che è veramente il dato singolare, la cifra dei tempi ultimi, l'impossibilità per donne che sono finalmente compiute, realizzate, di trovare uomini alla loro altezza. Franca, buongiorno. Buongiorno, io dico che è esattamente questo il problema, non ci sono uomini alla nostra altezza, gli uomini sono passivi, una sorta di bimbi che non crescono mai, non amano, ma a chi piacciono le responsabilità, ma non se le prendono neanche, e quindi non è questione di calzini o di vestirsi bene eccetera eccetera, è la sostanza quella che conta, non uomini ma bambini. Lei mi sembra che abbia finalmente toccato il punto, ridescritto quello che è diciamo, il colloquiare più comune, più usuale con le amiche 30-50enni, dicono esattamente questo, lo dicono poi a noi uomini tranquillamente piazzati, sposati, con altre cose per la testa, si sente questa profonda irrequietezza di non trovare uomini con cui passare il tempo. Simona. Sì, buongiorno Nicoletti. Sì. 45 anni fra pochissimo. Anche lei allora, di quelle, vero? Sì. Ma io non sono irrequieta, quest'anno posso dire di essere finalmente stabile, ma perché ho fermato le bocce, ho fermato i giochi e mi sono resa conto che attraverso una ricerca interiore, guardando all'interno di se stessi, si riesce a trovare quello che deve essere. È diventata buddista? No, assolutamente. Qualche altra però pratica la ricerca spirituale è stata essenziale. È andata a Medjugorje, cosa ha fatto? No, però mi piacerebbe, semplicemente ho praticato dei corsi di Reiki, fatto letture particolari. Sì, vabbè, adesso un'altra perduta. Mi dispiace Simona, auguri. Anna. Ciao, allora io sono una donna separata da 20 anni e sono sola. E sono sola perché sono una donna autonoma, non ho bisogno di un uomo che mi protegga, però vorrei un uomo che fosse uomo, un uomo che mi sapesse costeggiare, conquistare, che sapesse farmi sentire la sua donna, che mi facesse sentire, far sentire la sua compagna. Invece, ma non ne trova, sembrano delle cose no, così semplici poi. Ho trovato solo uomini egoisti che o volevano fare del sesso spicciolo e limitarsi all'atto sessuale e quindi non intraprendere una relazione. Quindi lei vorrebbe un uomo però da tenersi vicino per un periodo consistente. Io vedo un uomo che non faccio un marito con i calzini bianchi, come lei ha detto, perché questo è uno schema, uno stereotipo che mi dà anche fastidio. Vabbè, abbiamo così scherzato. Un uomo che fosse tale, che si sapesse comportare da uomo come io mi debbo saper comportare. Però Anna, da donna, mi faccia capire, perché è importante questo passaggio, lo dico da timido rappresentante della parte maschile. Lei vuole un uomo all'altezza o vuole un uomo da tenersi vicino per una porzione importante della vita? Lei cerca io una relazione un stabile. Con cui mi posso relazionare. Ma vuole una relazione libero. Stabile o è sufficiente avere un uomo sapendo che c'è? Perché è diversa, se lei è un uomo... No, io non voglio fare l'amante, non mi interessa un uomo allora, di un'altra. Allora vuole un uomo... Io vorrei un uomo, una relazione che mi appaghi sessualmente. Sì, però un uomo da sposare alla fine. No, non necessariamente. Ma da tenersi con lei, da convivere. Da tenere, da avere una relazione, sì, da farmi compagnia, da poter vivere insieme dei momenti piacevoli, da farmi sentire donna. E lui uomo, perché veda Nicoletti, si è perso il problema, è il problema che si è perso il ruolo della conquista di una donna, cioè i propri ruoli si sono persi. L'uomo non sa più fare l'uomo, la donna non sa più essere donna. Mi sembra molto chiaro. Marina. Sì, buongiorno. Sono Marina, ho 43 anni. E secondo me il problema è che le persone che si conoscono, gli uomini che conosciamo, sono sempre i soliti, c'è sempre un discorso di già conosciuto, sai già come si comporta, com'è, e nel tuo entourage di gente che conosci, e la difficoltà di conoscere magari qualcuno di nuovo che vorresti alla tua altezza, ma nemmeno adesso che c'è Facebook uno può conoscere chiunque se vuole. Sì, appunto, dico, so che tantissimi Facebook o Meetic per conoscere persone nuove, perché altrimenti sono sempre le stesse. E lei usa questi sistemi per allargare la sfera? Ancora non l'ho fatto, però sinceramente ho tantissime amiche che usano questo. Se no non si esce da cliché, sono sempre gli amichetti del liceo, esatto, invecchiati e stempiati. No, ma sono persone di cui si ha una perfetta conoscenza di tutto il vissuto e quindi non c'è più niente da scoprire, nessuna novità. E poi le persone veramente che vengono anche da altre storie, soprattutto proprio gli uomini, si portano dietro un bagaglio vecchio di vecchiume. Deve fare anche l'infermiera per leccare le ferite, esatto, di questi, esatto, poverini. Simone Perotti, riprendiamo Simone Perotti, l'autore di Dove sono gli uomini. Le ho dato la possibilità di ascoltare finalmente qualche, sì, rappresentante del campione che stiamo analizzando. Ecco. La penultima ha usato una parola chiave, ha detto non ci sono uomini con cui relazionarsi, perché vede, potremmo anche immaginare che in quest'epoca e nella prossima cambino gli ordini dei fattori delle relazioni, amanti, mariti, forse sono parole che devono essere superate per nuovi modi per stare insieme, ma il problema è che non si trova un uomo con cui avere una relazione, che sia un interlocutore. Queste donne, tantissime, io penso nel libro sono una selezione della marea di storie che mi sono state raccontate, hanno tutte quante questo problema, anche quello però di trovare un interlocutore. Il bello è che amano molto raccontare, sono molto loquaci. Capita a lei, come capita a molte persone, come da spesso anche a me, di uscire o stare assieme a 4-5 donne, alla fine si diventa il muto interlocutore, ma lo fanno perché ci siamo noi uomini, chiaramente, di tutti questi racconti. Il racconto poi è sempre lo stesso cliché. Ma secondo lei, come l'ascoltatrice che lei ha citato, alla fine non è che poi loro vogliono un uomo da reinserire in un ruolo tradizionale, cioè non lo vogliamo chiamare marito, amante, ma è un uomo per la vita alla fine che cercano? Certamente le donne sono diventate un vero interlocutore, perché non sono più soltanto donne, e tantomeno nel modo tradizionale in cui le abbiamo conosciute in passato, ma sono diventate delle persone a 360 gradi, esseri quindi in grado di essere interlocutore su moltissimi fronti, e tutti questi fronti li vorrebbero, con una brutta parola, esercire, cioè vorrebbero farle le cose per cui sono pronte, ma serve per questo un'interlocuzione, serve un compagno d'avventura, di viaggio, qualcuno che proponga un sogno o che segua un sogno, qualcuno che sia in grado di essere di volta in volta. L'altro giorno ho avuto un piccolo scambio con un noto psichiatra che diceva, beh certo, però vedo le donne anche molto confuse, perché a volte vogliono l'uomo forte, a volte vogliono l'uomo invece arrendevole, a volte vogliono questo, a volte vogliono quello, quindi le vedo confuse. Questo l'ho trovato di un maschilismo terribile, perché l'uomo ha sempre voluto dalle donne che fossero troie a letto, mamme, però brave a cucinare, però da esibire, compagne di cinema, di letture. No, chi potrebbe negarlo questo? Diciamo la verità, nessuno li ha accusati di essere confusi. Adesso che le donne vogliono dagli uomini un pochino la stessa cosa, cioè un essere a tutto tondo in grado di fare cose diverse, non sempre le stesse. Le donne sono confuse, ma questo è pazzesco. Hanno bisogno di un uomo nuovo, in grado di fare tante cose, molte di più, essere più a suo agio nei confronti della vita e quindi degli altri, e non lo trovano. Questo è il problema. Ecco, però diciamocelo molto chiaro a questo punto. Noi che siamo interlocutori e raccogliamo queste confidenze, forse riusciamo a fare un passo avanti rispetto al bieco nascondersi o il bieco guardare con sufficienza questo tipo di donne. Poi come ci comportiamo? Perché è un po' difficile ad essere confidente delle donne eternamente, uno un po' si stanca, diventa noioso il rapporto. È molto fervida e sarebbe il punto di lancio di una nuova relazione, perché quando le donne trovano persone in grado di ascoltarle, uomini in grado di ascoltarle, in grado di avere un'interlocuzione con loro non chiusa nell'aringo dei soliti ruoli, si aprono in maniera straordinaria, diventano grandi propositrici di ipotesi, di sogni, le inviti a fare qualunque cosa, anche la più bizzarra, e loro vengono anche se hanno paura di star male, di non essere felici, quindi sono molto aperte. Non c'è un rischio però, che alla fine però noi uomini ci stanchiamo di star con gli uomini. Io faccio qui una grande confessione, certo. A me gli uomini annoiano tantissimo, non frequento quasi per nulla. Assolutamente, ma io ho scritto questo libro, guardi, adesso per la prima volta rivelo la vera motivazione per cui l'ho scritto, è che io sono il primo a essere annoiato e deluso dall'interlocuzione con i maschi. Io vorrei degli uomini che fossero in grado di essere tutte queste cose, anche per me che sono un inveterato eterosessuale, ma che purtuttavia ho molta voglia di avere rapporti con gli uomini per la loro creatività, per le loro idee, per tutte quelle cose per cui gli uomini erano famosi, erano forse eccessivamente protagonisti, che oggi invece li vede del tutto collaterali. Il sento anch'io come uomo questa cosa che lei dice. È senz'altro vero, gli uomini sono diventati noiosissimi, lo diranno probabilmente anche i nostri amici di noi, non voglio negarlo. Forse per questo noi siamo molto con le donne, che rivelano questo lato meschino e regressivo della nostra evoluzione. A domani.